ca e plângevo pa sunda. La ne pico come la io. Ma sunda e polichina i bambongo. Come la tisa io mamma. Ma ca io to di magai. Calama.